want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, Soundcheck, il suono della musica di JJ Telesforo. Buon pomeriggio a tutti voi in contatto con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buon pomeriggio da Giorgio Telesforo e buon pomeriggio a una bellissima ragazza, una bravissima cantante, compositrice che più o meno una decina di giorni fa ho visto in azione dal vivo al Blue Note di Milano. E oggi è un piacere presentarvi questa artista che ha girato il mondo da ragazzina e che continua a farlo da artista, pur avendo nel cuore, diciamo musicalmente, culture diverse, che vengono da Cuba, un po' di Brasile, c'è Capo Verde, c'è le origini creole della sua famiglia. Quindi il piacere di presentarvi Mayra Andrade al Soundcheck di Radio 24. Welcome, benvenuta al Soundcheck, Mayra. Grazie, grazie mille. It's a pleasure for me to be here in Italy with you. Allora, Mayra, io so che tu hai girato il mondo, you've been around the world, and tell me your experience when you were a teenager with your family, about the music in your family. Raccontami delle tue esperienze con la musica in famiglia di quando eri una ragazzina. Well, in my family we used to listen to music as normal families can do. So the taste of music came, I don't know why, in a very natural way. Sì, un modo molto naturale, come in tutte le famiglie si ascolta musica, anche a casa loro si faceva questo. But what kind of music? Well, Cape Verdean music and also some Cuban music or North American music. But for some reason, I wanted to be a singer. I always wanted to be a singer since I'm 3-4 years old. Io credo che poi tutta la musica che te hai ascoltato si risente nella produzione che si intitola Lovely Difficult. Questo è il quarto album a tuo nome, però hai raggiunto una meta importante, un contratto con Columbia Records e Sony Music. So I can feel all this kind of experience in this record. So La Morna, Cesaria Evora, your passion for Cuban music and international pop. Mm-hmm. Well, this album is a good picture of the last 12 years I just spent it in. Sì, è una buona fotografia degli ultimi 12 anni che ha trascorso. I'm sorry, I have to do it. I just spent it in Paris. What can I say? I do music in a very natural way and my music is a good picture of my life. So I hope you can hear all these travels in my music because otherwise it wouldn't be logical. Eh sì, non sarebbe logico se non si sentisse tutto quello che ha vissuto negli ultimi anni, e soprattutto questo album rispecchia gli ultimi 12 anni vissuti a Parigi, because now you are in Paris. Yeah, for 12 years. For 12 years. 12 anni a Parigi, but now for the work you do you have to travel a lot. Adesso per il lavoro che fai devi viaggiare tanto. Yes, well, we start touring like 10 years ago, so I've spent the last 10 years traveling a lot, and I'm very lucky because I can live from my music since I'm very young, and this is a bless for me. Assolutamente, sì, è una cosa bellissima vivere con la propria musica. Da 10 anni fa concerti in giro per il mondo e quindi è diventata autonoma, nel senso che ormai vive di musica e fortunatamente per lei le cose vanno molto bene. Io direi di presentare subito qualcosa da Lovely Difficult, ultima produzione per Mayra Andrade, Tempo Que Vai. Do you want to talk about Tempo Que Vai? Tempo Que Vai is the first song I composed for this album, and it's a song about the time that goes by and we can never stop the time, you know, the time that takes almost everything, you know, the youth of our parents, our memories, our life, but also the time that can heal almost all the pains. So in that sense, the time is very powerful and it's a tribute to that. Ecco, è un tributo al tempo che passa e quindi ricordi, i genitori, tutto quello che nel tempo una persona può vivere. Il tempo è importante per lei, ma anche il tempo ritmico è importante per noi del Soundcheck, e quindi andiamo subito alla musica di Mayra Andrade qui al Soundcheck di Radio 24. Sì, oggi siamo in bellissima compagnia con Mayra Andrade, bellissimo concerto al Blue Note di Milano un po' di tempo fa, ma tornerà in Italia con dei concerti, credo a fine luglio, se mi danno conferma. Dunque a fine luglio tornerà in Italia, però adesso è qui con noi con il suo bellissimo sorriso e con questa nuova produzione, nuova di zecca per Columbia Records, e volevo sapere quanto c'è di Brasile in lei, so, perché la lingua, la prima lingua è il portoghese, ma il portoghese che parla lei non è proprio simile al brasiliano. So your Portuguese is not Brazilian, no? It's a little different. Yeah, not at all. Brazilian and Portuguese is a little bit different, and most of the songs I sing are in Creole, which is the Cape Verdean national language, a mix of Portuguese and African language. Eh sì, lei canta in questo disco in varie lingue, ma il portoghese che usa è il portoghese creolo tipico dell'isola di Capo Verde. E allora invece I want to play a real Brazilian star, you know Gal Costa? Of course, yeah. Do you like her? I love her, yeah. Eh sì, amiamo tutti Gal Costa, che arriva qui al Soundcheck con Mar e Sole, il mare e il sole che naturalmente illuminano anche il volto di Mayra Andrade qui al Soundcheck di Radio 24. Un sol, eu sou para o seu mar, ó meu amor. Você Soundcheck, il suono della musica. La bravissima Mayra Andrade, ospite del Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Sono molto contento, ci stiamo intrattenendo, ascoltando la sua musica e chiacchierando del più e del meno, naturalmente, di come si scrive una canzone. E io voglio sapere proprio da Mayra come scrive le sue canzoni. So, do you play guitar, piano? Suoni la chitarra, il pianoforte? I compose in the guitar. Ecco, scrive lavorando sulla chitarra. But are you a real guitar player? No, I'm not. I asked for my first guitar when I was 4 years old, but for some reason I still can't play it. I guess I'm too lazy to work it, so I only take the guitar when I need to do a song. Eh sì, perché per suonare uno strumento non bisogna essere pigri, quindi ha iniziato l'approccio con lo strumento quando era giovanissima, però non si considera una vera chitarrista. So tell me about your composition. How do you work when you have to compose? Come stimola la sua creatività? Come compone la sua musica? You start from the melody, the inspiration, what? Normally it comes from a melody that the inspiration can come when I'm walking in the street or in the metro, so I record it in my iPhone. Then I'm doing, you know, I'm doing the publicity for Apple because I have an iPhone. No problem. Then I take the guitar and then I start to look for the bass line. And then from the bass line I find the chords, because I've never studied music, so I compose by ear. Ok, lavora naturalmente utilizzando l'orecchio, autodidatta sullo strumento, quindi non conosce l'armonia, per cui quando passeggia, quando si trova in momenti in preda alla creatività, registra sul suo telefonino la melodia per poi cercare le linee di basso sulla chitarra e quindi gli accordi di riferimento. And, did you work in this way composing Ilia de Santiago too? No, Ilia de Santiago is not mine. It's from Mario Lucio. But Tempo Que Vai is one of my songs, or Amin Creuceu, or Tres Menino. This is how it worked. Well, Tres Menino, it was different because Pierce Faccini was in charge of the harmony and I did the melody. And then I wrote the lyrics. Eh sì, per alcune composizioni ha collaborato con vari musicisti. Il prossimo brano è Ilha de Santiago. So what kind of island is Santiago? Santiago is a very special island because it's my island. Eh sì, un'isola speciale perché è la sua isola. But also Mario Lucio's island, so he did this tribute to many musicians, singers and composers from that island. This song is about that creators. Ah, ok. Allora, Mario Lucio ha scritto questa canzone, anche lui viene dall'isola di Santiago e quindi quando ha scritto questa canzone ha pensato agli artisti di riferimento di questa bellissima località che spero di visitare prestissimo. Intanto vediamo come ce la racconta Mayra Andrade qui al Soundcheck di Radio 24. Di Santiago ci viene cantata qui al Soundcheck da Mayra Andrade, nostra ospite. Il piacere di avere anche nostro ospite un personaggio che io conosco molto bene perché abbiamo collaborato. You know that I'm a Columbia artist too? Yes. Sto dicendo a Mayra, lo sa che sono anch'io un artista della Columbia. And because of this guy. Perché? Perché ho iniziato a collaborare con Luciano Ribeggiani, che è il direttore responsabile di Jazz and Classic della Sony e quindi è responsabile di etichetta importanti come la Columbia, l'OK, che molto spesso ci propongono grande musica che noi suoniamo qui al Soundcheck. Buon pomeriggio anche a Luciano Ribeggiani, allora. Buon pomeriggio anche a voi e anche a te, ovviamente. Allora, quanto sei contento di avere in scuderia per Columbia e di lavorare con Mayra? Tantissimo, perché Mayra rappresenta una bellissima apertura verso quel mondo che abbiamo iniziato a scoprire nel senso professionale, no? Quindi a trattare, a lavorare proprio con il tuo disco. Quindi il tuo disco ha aperto una strada, non lo sapevamo ancora, ma è tipico, no? Delle cose belle, si iniziano a fare delle cose, poi non lo sai dove vanno a finire. Il tuo disco ha aperto questa strada. Tant'è vero che il disco di Mayra non mi è arrivato sulla scrivania da un ufficio internazionale, mi è capitato di ascoltarlo sul web, me ne sono innamorato, ho chiamato il mio collega, la mia collega in Francia, ho detto: ma voi avete fatto questo disco? Sì, mandamelo subito perché mi piace da matti. E quindi dice, e poi è proprio quest'area, bellissima area musicale, che non è proprio jazz puro, è quella bellissima musica di altissimo livello che può arrivare ovviamente a tutti. E quindi Mayra è il secondo bellissimo capitolo di questa bellissima storia che chissà dove ci porterà tutti insieme. Ma è bellissimo, Luciano, no, sono contento, grazie per avermi raccontato questa storia, in qualche modo mi sento responsabile di questa, anche di questa pubblicazione. Beh, sono contento. Allora, io vi voglio far ascoltare un ragazzo molto bravo brasiliano, questo è un disco di qualche anno fa, si chiama Max G. Castro, anche lui è un compositore molto versatile e anche lui mischia un po' le carte, quindi c'è il sound tipico della sua terra, ma con un po' di Cuba e un po' di pop internazionale che non guasta mai. Max G. Castro con A Historia da Morena, qui al Soundcheck di Radio 24. We'll be right back. desfez dos adereços e se vestiu de noir. Soundcheck. Il suono della musica. E brinca, brinca, brinca sempre, più meraviglia. O asa sempre lì, bagnos, da tutto ora. O asa sempre lì, bagnos, di di di di di di di di di di di di di di di di di nuovo in contatto con la prova del suono di Radio 24 dopo l'informazione, sempre in compagnia della bravissima e fammelo dire anche bellissima presenza di Mayra Andrade qui al Soundcheck. E questo era 3 Minutes, che è una delle composizioni di riferimento di questo album intitolato Lovely Difficult. Io ho realizzato un disco un po' di tempo fa intitolato Love and Other Contradictions, ma amore e altre contraddizioni. Invece qui si parla di amorevoli difficoltà, di un'amorevole difficoltà invece di un amore difficile. So it's not a difficult love, it's a lovely difficult. Yes, it's a nickname. My ex-boyfriend used to call me lovely difficult when I wake up in the morning and he look at me and he sees that I was in a bad humor. I'm in a bad mood. He says, oh my God, today you are lovely difficult. So it's, you say adorabile e complicata, no? Something, it's more or less that. Yeah. Eh beh, allora abbiamo scoperto le carte. L'album si intitola Lovely Difficult, per questo era il nome, il nomignolo che il fidanzato di Mayra le ha affibbiato, soprattutto la mattina, la chiamava così, quando si svegliava di pessimo umore. Why? Because your humor changed easily, il tuo umore cambia facilmente. I'm not bipolare, no, I'm not, but I, like every woman, there are some days where you shouldn't, you know, you shouldn't look for the come si dice? Non buscare a fera, non irritarmi. Sì, ci sono dei giorni che le donne, insomma, si svegliano un po' irrequiete, insomma, non hanno l'umore giusto. And how do you feel today? Come ti senti oggi? Good. Right now. Today I feel lovely. Ah, oggi si not sente lovely. Solo lovely. Beh, sono contento. I feel lovely too. Good. Good. Allora, da 3 Minutes io vorrei andare a presentarvi un'altra produzione per omaggiare il nostro Luciano Rebeggiani, un'altra produzione distribuita dalla Sony, questa però è sotto etichetta OK, che spinge un po' di più su sonorità jazz, e infatti questa produzione è affidata proprio a Didi Bridgewater, che ha portato nella sua scuderia questo giovane trombettista americano, ma anche da anni residente in Cina. Pensa, Luciano, che io l'ho visto dal vivo a Shanghai, dove per 8 anni lui ha suonato in questo club bellissimo di Shanghai. Questo ragazzo trombettista si chiama Theo Crocker, ottimo arrangiatore, con Didi Bridgewater come vocalist, non solo è la sua producer, ma qui canta anche. Ci fanno ascoltare questa versione di I Can't Help It, il successo di Michael Jackson, scritto per Michael Jackson da Stevie Wonder molti anni fa, e questo è sempre il Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. E siamo quasi ai saluti, abbiamo ancora un po' di minuti per ascoltare un paio di composizioni tratte da Lovely Difficult. Questo è il nome di questo album di Mayra Andrade, che approda, come dicevamo, a Columbia Records per merito del nostro Luciano Rebeggiani, e quindi fortunatamente la discografia italiana si accorge che ci sono cose non proprio pop, ma che possono funzionare, o comunque che bisogna spingere sulla qualità, Luciano. Sì, assolutamente, c'è un pubblico che lo richiede, ci sono progetti bellissimi, artisti bravissimi come Mayra, come te, insomma, veramente c'è una qualità magnifica. E poi sai, c'è una linea di demarcazione molto importante. Io mi innamoro di questi progetti e cerco di pubblicare quello che piace a me, perché io sono un ascoltatore come migliaia e migliaia dei nostri ascoltatori, no? Che cercano magari musica di qualità, e quindi mi piace regalare sogni alla gente attraverso questa musica di qualità. E noi siamo contenti perché la musica che scegli e che proponi è di grandissima qualità, ma oggi la musica non si ascolta esclusivamente dalla discografia ufficiale, ovvero dai CD, anzi si ascolta molto utilizzando gli MP3, utilizzando il digitale streaming internet. So this is the period of internet TV talent show. So Mayra, what can you recommend to young artists or composer to emerge in this period that is not so easy for music and the music business and arts in general? Well, it's a very complex question. Sì, una domanda difficile. Che cosa può consigliare ai ragazzi in questo periodo dove emergono soltanto i nuovi talenti dai talent show? I think it's important to be authentic. Ecco, l'importante è essere autentici. Questo mi piace molto. Yeah, try to find your own voice, because when you start doing music, you have many things that influence you, but then with the doing shows, concerts, and trying to reach people, you start taking off all the things that don't really aren't really yours, then just keep your own voice. I understand. Lei dice di puntare solo ed esclusivamente sulla propria personalità, sulla voce interna, la voce originale, perché poi magari facendo questo lavoro, quando si inizia a fare questo mestiere, inizia a esibirti, cerchi di conquistare il pubblico magari con qualcosa più vicino agli stereotipi e non alla tua vena originale, alla tua creatività originale. Invece originale è questa composizione di Mayra Andrade che io non so pronunciare. So what's the title of this track, please? Amin Creuceu. It's Creole. Yes, it's Creole. It means I love you. Thank you. You love me. Yes, I love you, but I also loved my ex-boyfriend, which gave the name of the album, the one who used to call me Lovely Difficult. He's an amazing man. So I did this song for him. Sì, ha scritto questa canzone per il suo ex fidanzato, but this just was the ex-boyfriend. And so you love me. Right now, I'll sound check. Siamo ai saluti, chissà dove andrà nei prossimi giorni Mayra Andrade con la sua musica. I'm very happy, I hope to see you soon, maybe in Italy for gigs, maybe in Italy for a new collaboration with this guy, maybe we can do something together, forse possiamo fare qualcosa insieme, musicalmente parlando naturalmente, I don't know, we'll see what happens, no? Yes, of course, I'm very happy you gave me your album, so I'm gonna listen to it very... cuidadosamente. Sì, lo ascolterà con attenzione il nostro disco New Joy, but anyway, I hope to see you soon. When you'll be in Italy again? Quando sarai in Italia di nuovo? Welcome for the festival Ravello. Oh, bellissimo. Ravello is a fantastic place. Yes, they told me it's a very nice place with the sea and it's unique, cold. Unique. So I'm expecting a lot to come. At the end of July? Yes, I It is. Sì, allora, alla fine di luglio tornerà per il Festival di Ravello. Noi invece vi lasciamo con Terra Longi, sempre per salutare Mayra Andrade. Vi ricordo Lovely Difficult per Columbia Records, Sony Music Distribution. Noi ci risentiamo nella seconda parte a partire dalle 19:15 con ospite un altro meraviglioso musicista, un pianista italiano famoso nel mondo, il bravissimo Antonio Farò. Grazie a tutti voi, grazie a Mayra Andrade. I love you, Mayra. Thank you, JJ. See you soon. See you soon, baby. Ciao. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di JJ Telesforo. Pronti per dare il via alla seconda parte del soundcheck di Radio 24, una domenica bellissima, ricca di musica e di grandi talenti. Il piacere di ospitare qui alla nostra prova del suono uno dei migliori pianisti italiani nel mondo, in giro per il mondo da 30, forse 35 anni, e con noi il meraviglioso, grandissimo Antonio Farò. Buon pomeriggio, anzi buonasera Antonio, benvenuto al soundcheck. Buonasera a tutti, grazie mille per l'invito, grazie. Perché ti ho invitato al soundcheck? Perché volevo parlare con te di questo album recente che è stato pubblicato per la produzione della Giando Music, il nostro amico Gian Domenico, che ormai produce album bellissimi portando in giro per il mondo musicisti italiani. E Antonio Farò con American Quartet si chiude in studio di registrazione qualche mese fa per lavorare con dei colossi del jazz internazionale. E quando si lavora con dei colossi del jazz internazionale come il batterista Jacques Dejonet e Joe Lovano, ecco, diciamo, non è una questione di produzione economica, ci vuole soltanto il talento, la preparazione e un nome come quello di Antonio Farò per riunire una band così con Ira Coleman al contrabbasso. Com'è andata questa esperienza? Ma è stata un'esperienza incredibile. Poi tra l'altro l'idea era proprio di riunire, di insomma fare una reunion di questi, insomma, con questi nomi incredibili come Jacques Dejonet, con il quale in passato avevo già lavorato, ho già registrato Torn nel 2000, e con Joe Lovano, nel disco di Giovanni Tommaso. Insomma, l'idea era di riunire e fare un disco evento, e devo dire che erano tutti ben disponibili e diciamo coinvolti in questo progetto, quindi questa è stata secondo me la cosa, la carta vincente, insomma. Cioè, sapere che Jacques Dejonet è il un terzo del trio di Keith Jarrett non ti faceva un po' impressione? Beh, fa sempre un po' impressione, però cerco di non pensarci quando suono, insomma. Penso, do più spazio insomma alla musica, e devo dire poi la disponibilità da parte di Jacques Dejonet e degli altri musicisti è stata incredibile, insomma. Il discorso era appunto di non creare il disco con dei nomi che poi, voglio dire, insomma, muore un po' poi lì il progetto. Invece c'è stata una continuazione, perché l'anno scorso appunto abbiamo fatto un tour, purtroppo Jacques non poteva venire per motivi di, insomma, era in tour col suo quartetto, quindi è venuto un altro grandissimo batterista, Billy Hart, e insomma è stato un tour incredibile. Hai intitolato questo disco Evan, lo hai dedicato a uno dei tuoi bambini. Che emozione è vivere da artista in giro per il mondo sapendo che poi si lascia a casa la famiglia? Beh, devo dire che quando mi assento anche per qualche giorno, insomma, sento proprio la mancanza, quindi per me sono parte di me, sia Evan, che precedentemente avevo dedicato l'altro disco a Dominique, che si intitolava Domi, quindi loro sono la mia vita, quindi insomma è inevitabile questa dedica. Allora, io direi di iniziare ad ascoltare una composizione scritta da Antonio Faraò. Il brano si intitola Per caso, che troverete, lo ripeto, in Antonio Faraò American Quartet con Ira Coleman, Jack DeJohnette e Joe Lovano in evidenza. In questo brano non c'è Lovano. No, suoniamo in trio, era l'unico brano in trio che ho voluto suonare. Lo posso dire? È il mio brano preferito del disco, è romantico, è bellissimo e tu suoni in maniera meravigliosa. Ti ringrazio, grazie mille. Caso, questa è una composizione scritta da Antonio Faraò, nostro ospite al soundcheck, e accompagnato egregiamente naturalmente da Jack DeJohnette alla batteria, Ira Coleman al contrabbasso, e poi ascolteremo un altro brano tratto da Antonio Faraò American Quartet con in evidenza anche il sax tenore di Joe Lovano, guest di questa bellissima produzione. Avete lavorato in uno studio bellissimo lì a New York. Come ha realizzato la produzione? Non vi siete chiusi in studio 3-4 perché non avete fatto standard, composizioni originali, quindi hai mandato la musica un po' di settimane prima. Sì, ho mandato un paio di mesi prima un demo, insomma, diciamo, per avere una traccia, un'idea un po' su quella che era la mia idea sui brani, insomma, che volevo eseguire, suonare originali, per lo più originali, però poi di fatto si è creato in studio il tutto, insomma, con Jack, Joe e Ira. Insomma, davano anche loro dei consigli, mi chiedevano anche come dovevano suonare certi brani. Io ho dato, chiaramente mi imbarazzava anche che Jack DeJohnette chiedesse a me come suonare un brano, quindi gli ho detto assolutamente. Beh, questo però mette anche in evidenza la disponibilità dei grandi musicisti, no? Perché suonano per fare la musica, per fare musica. Assolutamente sì, infatti non suonano per mettere in evidenza la loro preparazione, suonano per creare un progetto originale. Beh, è proprio quello che fa la differenza un po' dei grandi riguardo i grandi musicisti, quindi insomma è stato un onore per me, chiaramente. Ti voglio far ascoltare un album nuovissimo che si intitola Jazz Racine Haiti, è un tributo all'isola di Haiti con tutta la sua magia e i riti voodoo, un album realizzato dal sassofonista Jacques Schwarz Barth, musicista non molto conosciuto da noi, ma attivissimo negli Stati Uniti e nel mondo, e molto richiesto proprio perché è versatile, ha una storia bellissima, i genitori sono due scrittori, il papà è svizzero-francese, la mamma di Guadalupe, e quindi ha girato il mondo per seguire le vicende di questi due bravissimi scrittori, i suoi genitori, ha studiato sassofono, ha studiato pianoforte e scrive della musica bellissima, e questo è il tributo di Jacques Schwarz Barth, secondo me uno dei dischi più belli dell'anno, con la partecipazione di ottimi musicisti, fra i quali spicca anche la voce in questo brano di Rosna Zila. Il brano si intitola Bade Zile, qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Il suono del pianoforte di Antonio Faraò, una composizione intitolata Fields, ma tratta da un album del 2002 intitolato Far Out, e ho scelto questa versione, la versione per solo pianoforte, anche se poi nel disco c'è quella con l'organico completo, con il sax tenore di un grandissimo musicista purtroppo scomparso ormai da diversi anni, il bravissimo Bob Berg, che anch'io ho conosciuto e con il quale ho suonato a New York facendo parte dell'organico di Ben Sidran. Che cosa ricordi di Bob Berg e di questa produzione intitolata Far Out? Ma Bob Berg è un ricordo bellissimo, perché praticamente qualche mese prima della registrazione di questo disco qua mi aveva contattato lui personalmente mandandomi una mail che ho conservato, insomma, appunto proponendomi di suonare nel suo quartetto, perché Ed Howard, che era il bassista che suonava con lui, gli aveva fatto sentire qualche mio disco, insomma lui è rimasto impressionato e mi ha proposto questa cosa, e da lì è nata la possibilità di fare questo disco per la CAM, e quindi ho invitato lui come guest nel mio disco, insomma. E da Bob Berg passiamo invece al protagonista con il suo sax tenore di Evan, il tuo ultimo album, ovvero Joe Lovano. Ecco, Joe Lovano è uno dei sassofonisti più apprezzati ormai, posso dire, da 40 anni a questa parte. Un musicista che ha suonato di tutto, dal bebop all'hard bop al contemporary, musicista anche lui versatile, ultimamente si è esibito anche con Esperanza Spalding, insomma è un musicista che si diverte. E nel brano che vi voglio presentare sei riuscito a coinvolgere i tuoi partner Jacques Dejonette e Joe Lovano, con Ira Coleman al contrabbasso, in una versione super jazz di un classico italiano del grande maestro Armando Trovajoli, Roma non fa la stupida stasera. Come ti è venuta questa idea? Tra l'altro tu sei milanese e non sei romano. No, sono nato a Roma però. Ah, ecco, vedi? Allora, sono nato a Roma e mi ricorda molto la mia infanzia questo brano, perché era un brano che i miei genitori ascoltavano spesso, quindi insomma... E devo dire che ogni volta che lo sento mi viene un po' il magone, insomma, quindi ho voluto arrangiarlo, non l'ho cambiato particolarmente, insomma, l'ho arrangiato, insomma, ho cambiato qualche accordo, insomma, ecco. C'è qualche sostituzione armonica, però Joe Lovano il tema lo fa preciso così come è stato scritto. Sì, ma il tema io non lo tocco mai in genere dei brani, quindi il tema rimane fedele. Soundcheck, il suono della musica. Questo è un omaggio che faccio al nostro Antonio Faraò, ospite del Soundcheck in questa domenica super jazz, perlomeno in questa seconda parte, un classico del pianista Bill Evans intitolato Waltz for Debbie, nella versione con Bill Evans al pianoforte del meraviglioso Julian Conobal Adderley. Quante volte hai ascoltato questo brano, quante volte hai suonato Waltz for Debbie e perché? Beh, Bill Evans è un po' il papà dei pianisti, quindi insomma, specialmente nella dimensione del trio, piano solo, ho suonato parecchi brani, quando avevo insomma 20 anni ero proprio ispirato, insomma, suonavo proprio la sua musica, quindi Very Early, Waltz for Debbie e tanti altri standard che lui ha scritto, quindi insomma l'ho ascoltato diverse volte, poi non l'ho più suonato tanto spesso, però è un brano che sì, insomma... perché a un certo punto arrivò Herbie Hancock e lì hai avuto un'altra folgorazione con Herbie Hancock. Sì, prima di Herbie devo dire McCoy Tyner e poi Herbie Hancock, sì, insomma ci sono, ho vari papà pianisti, quindi senti, tu suoni tantissimo in giro, sei sempre impegnato, poi hai la famiglia, ma trovi il tempo per studiare? Quanto è importante per te adesso dopo 35 anni di carriera il rapporto con il pianoforte? Guarda, è costante, praticamente è sempre più importante perché non si finisce mai di imparare, tu lo sai anche bene, meglio di me, quindi insomma, quindi io se non studio un giorno, due giorni, sto male, quindi per me la costanza è fondamentale. Quindi la bega arriva quando devi andare in vacanza con la famiglia e il pianoforte non lo puoi portare, o riesci a portarti una melodica, una tastierina? No, ho trovato una soluzione fantastica, una bella tastiera, non voglio fare pubblicità, però comunque è una tastiera pesata che non pesa tanto, insomma me la porto. La porti dietro, perché le mani sul pianoforte tutti i giorni. Fondamentale, come un atleta. Esatto, e tra l'altro ti trovo in grandissima forma, al contrario di molti musicisti che si sono lasciati andare, te continui ad avere un bel aspetto e ti tieni in forma anche facendo ginnastica o cosa? Beh sì, un po' di ginnastica, poi ricambio. Grazie, sembriamo due compari. Esatto. Va bene, allora noi siamo arrivati ai saluti, Antonio, io ti faccio ancora i complimenti, il disco è bellissimo, si intitola Evan per Giando Music e la distribuzione a chi è affidata? La distribuzione, beh, in Francia perché è una coproduzione, è Armonia Mundi, in Italia lo troviamo sicuramente in giro per Giando Music, ma soprattutto su iTunes è molto facile rintracciare questa produzione, lo ripeto, Antonio Farao American Quartet con Ira Coleman, Jacques Dejonet alla batteria, Gio Lovano al tenore, un disco formidabile, e vorrei chiudere però con un regalo che fai ai radioascoltatori Radio 24, perché il brano è inedito, perlomeno questa versione di Theme for Bond, brano pubblicato diversi anni fa, però qui con la partecipazione di una bravissima vocalist. Chi è? Claudia Danski, è una cantante bravissima che ho scoperto. Di dov'è? Lei è praticamente danese. Mi ha mandato un paio di anni fa questo MP3, insomma, riarrangiato da lei e cantato da lei, di un mio brano dedicato, insomma, a un mio cane che si chiamava Bond, perché tutti pensano James praticamente Bond. Hai dedicato brani a tutta la famiglia compreso gli animali. Allora, grazie ad Antonio Farao, il brano non lo troverete da nessuna parte e quindi ce lo gustiamo qui al Soundcheck in chiusura, noi ci risentiamo il prossimo weekend e a tutti voi buona serata e buona musica da Gigi Telesforo e Antonio Farao. Buonasera a tutti, grazie. I